se è successo qualcosa, se è entrata dentro il pinello qualcosa. Ma perché è stranissimo, cazzo, è piazza per capo di nuovo, mi viene tutto stato regolato, ma voglio vedere questo stesso. Può essere anche così, ma ne dubito tantissimo io, perché ho fatto in modo che non si muovesse, il cavo era appoggiato in terra. Poi nel pezzo che deve scavalcare il parapetto gli ho messo un pezzo di latte, una fascetta per legarlo, e poi scende muro muro nel tubo di scolo, nell'acqua, del truviale, ed è legato con uno spago leggero, non è stretto. Comunque, a tutti comunque, la lettera, quando lui ci va al muro, si libero, e ti fai un salto e lo controlli. Caffa caffa, ma che Luca, tu stai fischiando? No. Dove stai scrivendo? Ma ascolti adesso, Luca, sono col portatile, più basso. Ti ascolta solo un attimo, vediamo un po' qua, sono a posto, come mai il rosto non funziona, no, non sale, adesso si è inchiodato l'ago del rosmetro. Ho detto come mi ascolti a me rispetto a prima, più basso sono, ho portatile. Santiago 9. Prima ero 9,5 con l'altro. Quasi 9,10 roba è. Quindi quasi 10 punti ne togli fuori questa roba, sarà il portatile il faccia. All'incirca. Gaffa gaffa. Riprende Mario. Scappa di rosmetro. È così, Ma comunque già va bene. Beh Luca, oggi niente lavoro. Io ci ho tagliato un'ora, Antonio. Adesso va a 2:30. Abbiamo tappato le tracce, tutto quanto. E niente. Cava cava. Adesso 2:30 e poi 5 me ne vado. Via. Dopo sta la doccia, poi esci. Perché non sono più uscito. Ah, è cappa cappa, va bene. Cappa di positivo, esce che andrà a la caterina. La rogaina. Aspetta un attimino, vediamo. Oh, guarda, sto sottofondo. Mi sono avvisato di rubando io, ma da là. Siamo nel resto, Gianni, ciao Gianni, buonasera. Buonasera anche a lei. Siamo in direzione verso casa. Esatto, ci ho ritirato i gringhellini? Come Mario? Ci ho ritirato i gringhellini? Sì, siete in macchina già, non possiamo rientrare a casa, perché c'è il buco nello zona. Ecco, appagato, ma io la notte quello che è successo, ti sei dormito con la macchina abbracciato. Cosa? La mia ex macchina ho visto. Vicino al bar? Al bar è quello dei due punti. Al bar dei due punti? Sì. Dove? Al Ponte Nuovo, alla fine. Stanno scendendo? Salendo. Al bar dei due punti, Dove c'è la pasticceria a Pagoda, c'è la presente, a fianco. Ah, cappa, adesso stanno volando lì. Dove sei arrivato Gianni? Sì, a un incrocio sono, un brutto incrocio. Sono in via Gorizia, dove si deve andare a supermercato. Gaffa, gaffa. Come mai tutti li hai mandati in quella zona a scuola, già? Perché sono più di scuole di scarsa. Capito, no, quello già è vero, sono tra le migliori, no? Pensavo per qualche comodità tua. Anche il mio problema a Valle Riccia, capito? Ho capito. Però quello è un problema secondario, dobbiamo andare lì perché sono le scuole più rinomate. Ci sono gli insegnanti, sono le scuole dei ricchi, le chiamano come San Giuseppe. Anche all'elementare Marco è lì alla numero 5, fanno tutto lì, anche le medie e tutto. Gaffa gaffa. Ripeta Mario. Gaffa gaffa, le scuole dei ricchi, le sai che non è né ricco né bollato, meno già. La scuola dei ricchi, non è vero che la scuola dei ricchi, è una scuola dove ci sono bravi professori e basta, non è che perché sia ricchi, poveri, non va bene. No, non hai compreso, no, nei ricchi nel senso chi vai con le scuole lì sono insegnanti di strada, di gente che sta bene, benestante, che tu hai una calcina a sedere grossi per andare di lì a insegnare. Ah, cappa cappa. Vabbè, io guardo, mia figlia è una delle prime della classe, quindi vuol dire che è servito mandarla lì. Esagerato. Vuol dire che una ragazza che impara in pratica e ascolta quando la perché hanno l'impalo, hanno anche fatto degli ugendi. Se tu vedi pure un bisellone e i compagni di coda, ancora meglio. No, dipende anche dalle professioni, guarda, però lo garantisco io. A noi ci hanno cambiato quattro professori di matematica, io sono stato sempre scadente in matematica, capito? Dipende anche dalle professioni. Comunque dai, sto facendo ancora di che sono arrivato, ciao a tutti, buon pranzo. Sembra così, ma è così. K, Rogi, K di positivo, KR. Avanti Mario. Riprendi tu, trovo un argomento interessante. E che argomento interessante vuoi trovare? Boh, non ce ne ho. Proprio un argomento interessante, abbiamo una mania. Sentiamo dopo al limite. Ciao, vedi, quello è un buon. Sarebbe un buon argomento, ma quello che vuoi vedere sotto la banca, questo che è. Se vuoi ragionare, buona carica, Luca. Ce la ascoltiamo alle prossime. No, era un sovrappensiero mio, Mario, più che altro. Sono convinto di andare di fuoco quanto per l'antenna. Sì, e come tu che non hai nemmeno mai altro per l'antenna? E cura cosa? Noi siamo andati da sola. Ma quella calluccia mangia tu? Io mangio a luna, sono già pronto a luna. A luna e vetro ho già finito. E niente, dico, mangi quella calluccia, cosa si fa? Se quello lì non gli arriva. Le mi ricordo sono due, ho mangiato una carruccia, ho mangiato un bisogno. No, io mangio un bel veloce, ma non so cosa dici che quando sono mangio ne mangio in fretta. Allora voi non so cosa dici che ci stanno mezz'ora solo ma una cucchiaiata, mangio veloce, senza buffarmi, tanto giusto, e buh. E uno li ha trovato, non è che ci sono le pause. Sì. Allora vai a tempo di record. Ma ne faccio di pause tra il primo e il secondo, la frutta e il dolce, mangio tutto una tirata. Guarda, io vorrei essere nella testa del tuo figlio, chissà che cosa penseranno. Dice, ma io si quasi è un bramillo, Ma non è questione di abbiamo, io mangio la pasta, dopo che ho mangiato la pasta, subito dopo mi mangio il secondo. O tutti e due contemporaneamente, non è che mangio tutto già pronto nella banca, non è che sto a pensare, a fare. E poi alla fine il dolce. Per me va benissimo. Ma tu che ti devi preparare tutto, ma lì subito di più. Scappa! Io me lo devo cioè prima devo andare al negozio a comprarmi qualche cosa, ma magari c'ho già altra roba e compro solo il pane. Poi devo venire a casa, mi devo preparare la pasta, cioè la pentola, metterla sul gas, accendere, fare, aspettare che molle, poi devo buttare la pasta. Cioè, ogni cosa c'ha il suo tempo fisiologico, diciamo così. E poi anche per mangiare ci vuole il tempo suo per rumiginare bene. Specialmente io che ne faccio un po' di mirilli. Ma parliamo, ma tu a tre esci dal lavoro, Mario? Alla una. Che cosa già fai veloce tu a cucinare? Pensavo che, ma ti prepari già qualcosa dalla notte? Vabbè, capo, ma non su, è pronto, Se non ce l'ho pronto lo devo comprare, ma al posto di comprare lo compro quando capita che l'ho finito, e allora lì al momento non ne ho, ma se no me lo faccio io a casa. Niente. Così che poi la carne è sempre pronta. Metto la pentola a bollire, apre il forno, metto la carne sulla graticola. Poi quando vedi che hai buttato la pasta, prendi la graticola e la metti dentro, là dentro, sopra la griglia elettrica, là. Gaffa, poi ti fa un'insalatina e è finito. L'insalatina non è sempre, molte volte mi piglio qualche pomodoro, lo spacco a metà, un pezzo di sale fino, un goccio di olio e tre bagliettaggio. Gaffa, adesso te la vendono già pronta, l'hai vista? Io qualche volta la compriamo anche da mutire delle vaschette, già tagliata e tutto pronto. Devi solo metterci un po' di sale, riaccetto, di olio e magni. Solo che ti la fai mangiare un chilo di roba. pasta, non bisogna mai fidarsi, se chissà cosa è buono nel mezzo. Cattaglia, no, io pido qualche melga, qualche poco di lattuga, pomodori, roba che mi fa la grossa, 2 sciardi e 3 magattaccio. Cattaglia, però sempre il numero uno, secondo me, è la rughita, come c'è la rughita non prende. Beh, la rughita è piccante, è coso, è una cosa diversa. No, io c'era un periodo quando andavo lì a campagna di Pomponio, facevamo bietole, facevamo roba così, allora era vivo anche la buona rima del padre, c'era anche la fragola, niente, un po' di rughita, un poco di bietole, roba così. Una volta facevi l'insalata bollita, le bietole bollite, una volta facevi pomodori, rughita e coso a Pannapoli. Prima lo volevo dire, adesso non mi ci esce. Pomodori, rughita e la linea di mozzarella. Mozzarella, so che avete fatto il pezzo di finocchio, di coso, come si chiama, di seta, l'ho tutto mischiato, già è buono. Ecco, ragazzi, no, io di solito i pomodori li faccio, pomodori, mozzarella e un poco di rucola. Sì, i panini li faccio un po' di volta, a me così così, pomodoro, mozzarella e coso di rucola, non credo di fare nessuno, troppo buono, fatto povero ma nutriente. Alla faccia del pipero, cazzo pasto povero, diciamo che è un secondo con quello che costa la mozzarella. No, dico povero nel senso di costo, perché con un pomodoro mangi abbondantemente, un pomodoro un po' di rughita, a livello di prezzo è poco, ma infatti un panino con la mozzarella o cosa del genere ti costa di più. Costa tranquillo di più quel panino con il pomodoro, anche la bumatta deve farsi in bagaglio, te la regalami. La rucola, vabbè, ce la raccogli tu, niente, però la mozzarella quella costa 2 euro. Vabbè, la mozzarella, no, non te la metti tutta, ti fai un paio di fettine, ci metti anche il formaggino nel mezzo, figurati. Comunque la mozzarella è rughita, non è che tu cerchi di mettere solo la mozzarella, ci fai mettere anche il formaggino nel mezzo. Scappa gatta, è vero. L'altro giorno quando stavo salendo da Cagliari, che ero sceso giù a Cagliari, mi sono fermato all'ACP, un panino con pomodoro, rucola e coso, come si chiama? Pomodoro, rucola e mozzarella, 2,70 euro mi sembra che ho pagato. A vedere, approfittano sempre al punto di ristoro vicino a Masanta, vedi se li fai? Cappa! Io cazzo ti vendo anche l'acqua del rubinetto, se ti svi. Beh, è così, vabbè. Lì tutti i pazzi si fermano, un poco per benzina, un poco per riempirsi le gambe, un po' per mangiarsi un panino, per darsi un caffè. Lì le girano soldi, Mica rubri, un bel di dinamica, un bel di gente pure circola di lì. Cattagatta, perché negli altri posti non ce n'è, me lì all'uscita di Cagliari ce ne sono uno vicino a un restaro, allora c'è la Tavoil come esci lì da Cagliari e poi c'è quell'altro vicino a un restaro, e niente, poi c'è quello di Abbasanta. Però quando uno esce da Cagliari non si ferma subito, capito? Si ferma più o meno lì a Masanta e a metà strada. Sì, sì, più o meno a metà strada, sono 100 km, 110 km da Cagliari, per cui siamo a metà strada. Almeno ti sganchisci un po' le gambe, anche se magari non consumi niente, ti siedi, ti fermi 5 minuti, ti prendi un po' di aria, sempre che stiamo parlando che ci sia una bella giornata, se no ti rimani in macchina. Ehi, cappagatta, ma chi è che sta viaggiando, non sta nascendo a pigliarsi un caffè, una cosa, fumarsi una sigaretta? Cappagatta, quante volte io sono sceso a Cagliari, tutta una tirata ho fatto, però quando sono in fretta non me la fatti nulla, però quante volte sei stanco, ti fermi 10 minuti o 4 ore, il riposo e il recupero, così resta la strada ci va anche tranquilla. Io credo che una volta che sono andato lì a Cosor, è molto più lontano, quando sono andato a Calaforte sono arrivato lì a Basata, me ne sono sceso da casa, mica sono entrato dentro il mare, mi sono sdraiato in una di quelle panche che c'è in pietra, mi sono sdraiato, ho chiuso gli occhi 10 minuti, ho detto ah che pazze, anziché stare aggrancato sul cavio. Anche io molte volte, soprattutto l'estate, quando avevo lasciato la macchina e non c'era l'aria condizionata, era un caso da morire a luglio, mi sono sceso a Cagliari, dovevo rientrare all'ora di pranzo, mi sono fermato, non so se l'hai visto, più o meno all'altezza di Oristano, prima, un po' prima, ci sono quelli di piazzone dove ci sono gli alberi, dove vendono le arance, e lì mi sono fermato una mezz'oretta, un paio di polipositi non veloci, così recuperi, ma era un caso da lì. Ecco, poi preso una volta io a fermarmi e allungarmi, e se non ci sono panchine, apro tutti e due gli sportelli e mi sdraio sui sedili. Sì, sì, io faccio così, lo stesso. Allora sei stanco perché c'è un bel di caldo, mamma mia, come mi voglio lamentare. Mi sono fermato, recuperi bene, ti apri gli sportelli che circola l'aria, al fresco si fa bene, recuperi bene, se no ti viene un colpo di sonno ma tu viene a bici. Infatti io lo faccio per quello lì, specialmente quando fa troppo caldo, perché nel camion non c'è aria condizionata, non c'è nulla, è un casino. È troppo caldo il collo, ti può venire un colpo di sonno, ok, ti sembri dei, no, meglio niente. Meglio fermarsi in una piazzola all'ombra, ti allunghi sui sedili se non ci sono panche, ok, e via. Sì, sì, sì, è la cosa migliore sempre. E c'è invece Luca, ci sei Luca? E Claudio a lavorare è andato, niente ci sta. Ma adesso la verità non l'ho manco chiesto, ieri sera poi non hai sentito le entrate, ti ha salutato per questa. Sì, sì, l'ho sentito un secondo in massa, di fuggita. Ma prima entrava più frequentemente, adesso molto di meno. E beh, per forza, quando uno si sente così messo tra i due fuochi, siccome lui è radioamatore, sì, c'è anche cosa per fare il CB, però essendo radioamatore lui non è che può scendere a certi livelli, capito? Sì, sì, sì, caffa, e vabbè, purtroppo ci sono queste situazioni che anche lui si vede toccato, forse lui. Non si vede toccato, lui è toccato perché è pigliato di mira da tanta gente, magari da colleghi, da chissà chi, capito, è un po' un casino perché giustamente lui ha studiato, si è pigliato la patente e non è giusto che venga messo in discussione così, anche perché se lo dovessero cacciare, per cacciare lui si gioca la patente, capito? E siccome lui alla patente ci tiene parecchio perché ci tiene un bel radio e allora niente, se rimane al posto suo e poi lui l'altro gli dice a me non mi tocca, così che le castagne alla fuoco levatevele. Gaffa gaffa, purtroppo ci sono gelosie, sono cose brutte. E cosa ci vuoi fare? Allora non voglio di più, perché c'è uno che fa lo stronzo che si mette a fare questo spirito di patata, ma lui le lascia vivere, lascia correre l'acqua dove sta correndo, a tutti i dini, cosa cavolo te ne frega andare lì, trasvare quello, trasvare quell'altro, fare succedere il casino, ma non te ne viene niente a tasca, ti non sei venuto qualcosa a tasca, ma non te ne viene niente, così che frega, te ne fai quello che devi fare, buonanotte. Cosa fai lì? Allora se mi dovessero pagare per fare una cosa di genere non la farì. Anche perché quando mi vado a andare a chino per rilassarmi 10 minuti, non per stare lì a rompere le palle agli altri. Sì, sì, lo posso fare la stessa cosa che dico io. Lascia vivere, io dico. Poi Gianni si è addormentato e ci ha lasciato lì come due cretini. Deve essere, si affatica parecchio il lavoro che fa, forse può vivere assolutamente, no, vabbè, diciamo, non ci sono problemi. Gatta, gatta. E beh, come adesso c'è stato al carco, vedi, preferisco stare rilassato sulla sedia, tranquillo, farmi una chiacchiera, poi a quell'ora vado a letto, perché se no l'ho letto prima. Io ieri notte praticamente sono andato a letto un'ora prima, perché mi sentivo un sacco. Stamattina però alle 4:30 ero sveglio. Purtroppo poi quando sei un bel franco molte volte non riesci a recuperare e fai un sonno molto molto brutto e il giorno giù che non hai dormito di un mare. Ah, infatti, perché se mi stanco, cosa da fare? Vai a letto un po' prima perché dici ah, ma poi ho la roccia. E che cosa succede? Che dormi le prime ore bene e poi ti svegli perché ti svegli, perché dormi quella poche ore perché la stanchezza è superiore, però poi basta, non dormi più. E anche io sono così, poi non so col tempo pure anche quando diventi più grande, ma da giovane passavano 2 ore a recuperare, ma quando non riesci a superare i 40, almeno nel caso mio la stanchezza si sente molto di più. Prima eri bello che invece sono alle 9 di mattina anche se dormivi 2 ore, allora se non dormi 2 ore in tutta la notte sei più stanco di prima. Cappa. No, io già ho dormito, ho fatto dalle 11 alle 4, insomma, non sono poche, no? Sono 5 ore. Vabbè, ma non bastano, l'ideale è dormire 8 ore, però dormire bene, non dormire ma di 3 ore così, poi ti svegli, poi di nuovo sei riaddormenti, poi di nuovo ti svegli, e peggio che mai così, a me mi succede così molte volte. No, io ce l'ho perché sono abituato da piccolo, che cioè io non ho letto, ma non c'è stato meglio era, cioè io andavo, mi coricavo, ce l'hai, però mi manca la gara, vivo. Cappa, hai detto la parola magica, vivo la gara, perché adesso sì, lavori, fai, però quando arrivano le 6 del pomeriggio inizio a sentire la stanchezza, Infatti tu dici, dammi un vaso di vino, ma me ne sto tranquillo, dici, e ti viene un po' di mandronia. No, mandronia no, perché tu a casa se non te ne fai male fai, così che ti devi dare da fare anche un poco a casa. Poi ci sono quei giorni che arrivi, ti fai la luce, ti allunghi sul divano e guardi un po' di televisione, poi alle 7 esci tu dal lavoro, già non sta rientrando, allora più ti attacchi al baracchino. Adesso poi il baracchino si sta svuotando di nuovo e ci ha detto che annessi. Cappa, c'è qualcuno che sta sbratterando. Forse io già non sento niente, già sono un portatile con l'antenna piccola. Cappa, no, io sento perché devono essere vicino a me. Tu Fedele, ma che te lo conosci? No, credo che siano sul 5, saranno camionisti che passano qui sotto casa. Ah, non è gente che conosciamo qui. Ma no, negativo. Tu ci avessi per Luca, ci sei? Ma ti ha fatto il buco dello stomaco. Luca doveva andare a caricare, poi doveva andare a lavorare, a dare una mano a Antonio. Giusto. Ma 2 mesi a me fare di adesso? Non l'ho sentito bene io, non ci stavo facendo caso. Tu sei fatto il solito orario, entri alle 3, Mario. Sì, io alle 3 entro a lavorare. Finisci alle 6, se è messa così. Se l'orario è alle 6, però molte volte c'è l'intoppo, sì, è mezza, qualche volta alle 7. Dipende dal lavoro, ok. fattoria, no? Che piglia il lampo non si la mamma e loro lo barro la lascia, ma che tutto sta lì. E lei secondo cosa sta facendo, anche perché poi l'indomani non ci puoi tornare perché l'indomani c'è altro da fare, capito? Ma quanti siete di lì Mario oltre a te? Sono io, un ballo, però io sono quello sempre in giro, se c'è roba di muratura devo andare, sfasciare, fare, preparare tutto quanto, poi arriva l'impiantista, perché siccome tutti i lavori che loro fanno li devono certificare, e uno non si fida dall'altro, capito? Allora la responsabilità c'è quello che dice fai, paga tutti i debiti, poi la vengo io e non ti preoccupare. Però c'è quello che non si fida, capito? E devi aspettare a lui, devi aiutare a lui e devi fare come dice lui perché sennò poi non certifica. Praticamente siamo due in quattro. Io il titolare, così. Papà. Lavoro c'è sempre, lui c'è sempre. Capito? se le avrà selezionate i clienti sicuramente. Con gli uomini si è tenuto che di Rossi non li ha tenuti. Vabbè, certo, no. In 30 anni che sta facendo quel lavoro le conoscerà le persone, no? E siccome il bruciatore ne ha pigliato tanti anche lui, però con l'andare del tempo ha imparato a conoscere le persone, se quello lì viene che c'è i soldi in tasca, va bene. Se viene che c'è l'assegno, siccome lo conosce già, dice no, no, tienitelo pure l'assegno, vai in banca, a me mi porti i soldini e io ti do tutto quello che vuoi. È così, deve essere così, se no ti funziona. Ciao ciao. De nuevo, ciao.